Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, mi sa che non era ancora successo in questi primi 4 anni di Soundcheck augurare ai nostri radioascoltatori al tempo stesso buon anno e buona domenica. Sì, infatti, era forse sì, sicuramente la prima volta, io non mi ricordo le altre volte. Buon anno a te, Tromba. Buon anno anche a te, tanti auguri a tutti. Grazie, tanti auguri, ti vedo bene, quindi vuol dire che non hai fatto bagordi impossibili. No, mi sono ripreso piano piano alla fine, ho preso diversi caffè. Mi scuso, mi dispiace non essere stato con te, però proprio non ce la facevo, te l'avevo detto che sarei rimasto a casa. E questa mattina, svegliandomi, prendendo il mio caffè, mi sono svegliato prestissimo, alle 6:30 mi sono svegliato, sono uscito qui in mezzo alla campagna e mi sono sentito pervaso da un'atmosfera natalizia ma western al tempo stesso, un po' bluegrass, un po' country, vagamente blues. Dai, sei abbastanza vecchio, diciamo. Ma che c'entra questa cosa? Ma che stai dicendo, Tromba? La verità è che questo mi ha ispirato, quindi rientrando nello studio subito, a tirare giù una scaletta, un airplay per questa sera adeguato al momento. Sì, in realtà il mio era un riferimento al disco di John Scofield che andremo anche poi ad ascoltare più avanti, Country for Old Men. È vero. Insomma, fatto sta che oggi cambiamo proprio il suono del soundcheck. Sì, infatti è abbastanza strana questa cosa, mi stai facendo ascoltare un po' i brani, sono tutti bellissimi, però devo dire io non mi fido molto del country, però in questo caso devo dire che ci la sono musica dei ci bei piace pezzi. Tutta beh, ma quante volte abbiamo proposto bluegrass contemporaneo fatto da musicisti impeccabili, musicisti preparati che hanno studiato e che poi sono anche capaci di potersi cimentare in repertori diversi come il jazz o la musica classica, no? Sì, che comunque sono dei maestri dei loro strumenti, cioè proprio dei punti di riferimento. Allora, che dici, vogliamo iniziare? Iniziamo, dai. Vorrei iniziare con qualcosa di molto particolare, anzi quasi improbabile potrebbe essere, perché vorrei partire con una versione anomala, nel vero senso della parola, di Purple Rain di Prince. Sì, fatto da Dwight Yoakam. Esatto, che è un campione proprio del country americano. Infatti è stato da poco pubblicato per la Sugar Hill il nuovo album intitolato, pensa che titolo, Swimming Pools Movie Stars. Sì, perché lui tra l'altro è anche un attore e un regista, oltre ad essere un grande musicista. È bellissimo perché in copertina c'è una palma in una specie di isolò. E poi invece nella retrocopertina ci sono tutti gli strumenti, quelli tipici del country e del bluegrass, dal banjo a chitarra acustica, il dobro, contrabbasso, il fiddle che sarebbe il violino, tutti buttati in piscina. Sì, pensa è tu, buffissima. Una band country che suona a bordo piscina non è proprio il massimo dell'immaginazione, cioè, allora, è una cosa strana. E infatti, allora diamo via al soundcheck, il primo soundcheck del 2017 con Dwight David Yoakam, e il brano è Purple Rain, e questo lo conoscete senz'altro, ma in una veste assolutamente diversa da tutte quelle che avete ascoltato fino a oggi. Beh, senz'altro una versione anomala di Purple Rain di Prince, questa è la versione di Dwight David Yoakam, classe 1956, songwriter americano, campione della country music, nuovo album per lui intitolato Swimming Pools Movie Stars. Sì, è una versione abbastanza strana di Purple Rain, è un po' come se un neomelodico napoletano cantasse una canzone di Prince, una cosa strana. È vero, una canzone come Purple Rain viene proposta da artisti afroamericani con quella punta di soul, invece qui ci troviamo un musicista bianco tipico tipico della country music, che quindi ha eliminato completamente dalla vocalità quella punta di soul e ha realizzato la sua versione personale, che non potevamo lasciarci sfuggire comunque qui al soundcheck di Radio 24. Invece un campione del blues è Bobby Rush, che arriva dalla Louisiana e si sente nel sound, perché anche nel suo blues si sente un po' quella un po' quel melting pot culturale tipico della Louisiana, no? C'è il bluegrass, il country, una punta di jazz e di funk che non deve mancare. Sì, lui è 83enne, sì, grandissimo. Lui comunque ha suonava nel circuito di Etta James, di Howlin' Wolf, di Muddy Waters, quindi con i grandissimi del blues. E in questo caso però ci regala un sound un po' fuori dai suoi soliti canoni, un po' meno blues, un po' più vicino al bluegrass e al country. Sì, comunque un protagonista della scena musicale della Louisiana, tra l'altro coinvolto da Martin Scorsese in uno degli appuntamenti di The Blues, una miniserie che tra l'altro gli appassionati di musica che seguono anche variazioni su tema su Rai 5 il mercoledì alle 21:15 avranno certamente apprezzato, perché è stato proposto più volte da Rai 5. Sì, è un documentario assolutamente bellissimo da non perdere. Bobby Rush, I'm Tired. Soundcheck. Il suono della musica. Eh sì, questa sera un soundcheck particolare per inaugurare la stagione 2017 qui su Radio 24, sempre con Francesco Tromba e Gegé Telesforo, in compagnia del sound particolarissimo dei The Time Jumpers. Che band, ragazzi! Praticamente swing western, potremmo definirlo il genere dei The Time Jumpers, che sono dei veterani di questo genere. Eh sì, tra l'altro è perfetto questo suono per passare l'hangover del... della notte di Capodanno. È vero, eh? Sì, fantastico. Sì, se avete un po' le orecchie piene di quella musicaccia da discoteca. Allora, io consiglio agli appassionati di musica, a quelli che ballano anche lo swing, ce ne sono tantissimi in Italia in questo momento, per esempio voglio consigliare l'acquisto di questo disco a due persone in particolare, al mio amico Pigi e anche a Greg. Ah, sì, loro sicuramente potranno apprezzare. Già, invece al mio amico Renzo Arbore regalerò proprio una copia di questo album intitolato Kid Sister, protagonisti The Time Jumpers. Sono sicuro che Renzo non solo apprezzerà molto i brani e il sound, ma credo che gli verranno varie idee. Ci farà un disco, magari. Ci farà un disco, dovrebbe coinvolgerli e fare una tournée con The Time Jumpers. Mi sembra proprio il sound adeguato alla personalità di Renzo. Sì, magari ci farà sicuramente un disco. Invece volevo raccontare appunto questa cosa, che loro originariamente, i Time Jumpers, erano 11, poi uno dei membri purtroppo è scomparso nel 2014 a causa di un cancro ai polmoni. Da allora loro hanno messo su questa fondazione per raccogliere dei fondi per devolverli alla ricerca, sì. The Time Jumpers qui al soundcheck. Mi piace tantissimo il sound di questa band. Io direi di ascoltare, Francesco, proprio il brano sigla dei The Time Jumpers. Con questo brano aprono proprio i loro concerti e spero di poterli vedere in tournée. Guarda, andrei a vedere volentieri un concerto di questi, fra virgolette, ragazzi. Il brano si intitola We Are The Time Jumpers. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Si intitola Country for Old Men. Sì, la campagna per un uomo della certa età. Potrebbe quasi essere un titolo per una mia prossima pubblicazione, Francesco. Eh sì, visto come ti sei svegliato oggi. Ma l'idea l'ha rubata John Scofield, che pubblica per la Impulse un album secondo me capolavoro. Si lascia andare a sonorità che forse non ha mai frequentato, ma sicuramente apprezza e conosce molto bene. Per fare ciò ha coinvolto in studio di registrazione alcuni fra i più quotati musicisti di jazz, che come vedi si sono divertiti con John Scofield a creare una produzione dal sound molto particolare. Sì, e i musicisti sono Steve Swallow al basso, Larry Goldings al piano e all'organo Hammond e Bill Stewart alla batteria. Che musicista Larry Goldings, che musicista Bill Stewart, Steve Swallow, neanche ne voglio parlare. Insomma, un disco da non perdere se siete appassionati di jazz, ma di musica di qualità, che è quella che noi vogliamo rappresentare qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, è John Scofield che è tornato dopo neanche un anno dal suo Past Present, l'album precedente che gli è valso anche un Grammy Award. Sì, è instancabile. Sì, nonostante l'età comunque è ancora veramente super produttivo. Sempre in tournée, sempre sì. In tournée, sempre in giro, e poi si rinnova a ogni album. Sì, ha sempre un'idea diversa. Sì, questa è la musica che noi vi presentiamo al Soundcheck, e lo faremo anche sabato prossimo, perché termina qui l'appuntamento, il primo appuntamento del 2017. Vi lasciamo sempre con John Scofield, con un brano intitolato Faded Love, forse il mio preferito, ma torneremo con tante novità sabato prossimo alle 19:15 e saremo ancora una volta su Rai 5 alle 21:15 con variazioni su tema. Sei contento? Contentissimo, continuate a seguirci. Bene, buon anno a tutti di cuore da Giorgio Telesforo e da Francesco Tromba.